il detenuto in teoria continua a godere all'interno del carcere di tutti, proprio tutti, i diritti, le prerogative, le facoltà che ha un cittadino libero, tranne in alcuni casi la privazione dei diritti politici, ma la stragrande maggioranza dei reclusi non ha avuto la privazione, oltre che della libertà, e quindi della libertà di movimento e di proprie scelte, non ha avuto in sentenza alcuna limitazione dei diritti che come cittadino ha in dotazione. La realtà è totalmente diversa, la realtà dice che si tratta di diritti pressoché tutti non esigibili, cioè diritti che il cittadino recluso non può far valere. E questa situazione di fatto è aggravata da un'altra circostanza, che all'interno dello spazio carcerario non ci sono autorità che possano imporre il riconoscimento di quei diritti. Non ci sono cioè figure terze tra custodi e custoditi, non ci sono figure di garanzie, autorità dotate della capacità di ottenere che quei diritti siano riconosciuti. Da alcuni giorni è in corso in numerosi carceri italiani una mobilitazione dei detenuti, una mobilitazione assolutamente e incondizionatamente pacifica, che si muove intorno a obiettivi tutti senza eccezione condivisibili. Questi obiettivi riguardano in primo luogo la tragica situazione della sanità penitenziaria e riguardano poi il problema davvero importante e delicato della concessione dei benefici, delle misure alternative, degli arresti domiciliari, cioè tutte quelle forme che consentono di scontare una pena senza che questa debba corrispondere necessariamente alla reclusione in una cella chiusa. Rispetto a tutto ciò e a domande che vengono dalla popolazione detenuta ormai da molto tempo, da anni, l'atteggiamento del governo è, non direi nemmeno di totale chiusura, ma qualcosa che ritengo peggio, di totale indifferenza. Questo è il nodo, un silenzio assordante senza eccezioni, indifferenza e assoluto rifiuto di considerare il problema. E l'unica politica carceraria di cui si sente parlare è l'edificazione di nuovi istituti penitenziari, cosa che a nulla serve, perché costruire un carcere significa solo aumentare il numero dei reclusi, richiede tempi assai più lenti e lunghi dei tempi di crescita del sovraffollamento, e soprattutto questo progetto dimentica un dato di fatto, che già oggi l'indice di carcerizzazione, cioè il rapporto tra popolazione detenuta e popolazione nazionale, l'indice di carcerizzazione oggi in Italia è uguale a quello del dopoguerra, cioè degli anni tra il 45 e il 49, cosa che già significa molto, perché evidentemente quegli anni, quelli del dopoguerra, presentavano una condizione sociale del nostro paese non comparabile, non confrontabile con quella attuale. Significa cioè che oggi nelle nostre carceri c'è un numero di detenuti assolutamente e immotivatamente eccessivo rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza collettiva.